Invito all'armi, invito all'armi, pensa alla gente e al tuo dover. Se il cor guerriero, invito all'armi, pensa alla guerriero, di vita all'armi, pensa all'armi.